32° canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Joachim. Inferno, 32° canto. S'io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce? Io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non l'abbo, non sanza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso, ch'aiutaron Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. O sovra tutte mal creata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, mei foste state qui pecore o zebe. Come noi fummo giù nel pozzo scuro, sotto i piè del gigante assai più bassi, e io mirava ancora all'alto muro, dicere udimi, guarda come passi, va sì, che tu non calchi con le piante le teste de fratei miseri lassi. Perch'io mi volsi e vidimi davante e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo di verno la Danoia in Osterlicchi, né Tanai là sotto il freddo cielo, com'era quivi, che se Tambernicchi vi fosse su caduto o Pietrapana non avria pur da l'orlo fatto cricchi. E come a gracidar si sta la rana col muso fuor dell'acqua quando sogna di spigolar sovente la villana, livide in sin là dove appar vergogna eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e da li occhi il cor tristo tra lor testimonianza si procaccia. Quand'io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsimi a piedi e vidi due sì stretti che il pel del capo avieno insieme misto. Ditemi, voi che sì strignete i petti, diss'io, chi siete? E quei piegaro i colli, e poi ch'ebberli visi a me eretti, gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra e il gelo strinse le lacrime tra essi e riserrolli. Con legno legno spranga mai non cinse forte così, ond'ei come due becchi cozzaro insieme tanta ira li vinse. E un ch'avea perduti ambo gli orecchi per la freddura, pur col viso in giue, disse: perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzio si dichina, del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro, e tutta la Caina potrai cercare, e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra, con esso un colpo per la man d'Artù, non focaccia. Non questi che m'ingombra col capo sì, ch'i non veggio oltre più, e fu nomato Sassol Mascheroni. Se tosco s'è, ben sai omai chi fu. E perché non mi metti in più sermoni, sappi chi fu il camiscion de pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid'io mille visi cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre de gelati guazzi. E mentre ch'andavamo in ver lo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'etterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna, non so, ma passeggiando tra le teste, forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: «Perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste?» E io: «Maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai quantunque vorrai fretta». Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: «Qual sè tu che così rampogni altrui? Or tu chi sè che vai per l'antenora, percotendo, rispuose, altrui le gote, sì che se fossi vivo troppo fora? Vivo son io, e caro esser ti puote», fu mia risposta, «se dimandi fama, ch'io metta il nome tuo tra l'altre note». Ed egli a me: «Del contrario io brama, levati quinci e non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama». Allor lo presi per la cuticagna e dissi: «El converrà che tu ti nomi, o che capel qui su non ti rimagna». Ond'egli a me: «Perché tu mi dischiomi, né ti dirò ch'io sia, né mosterolti, se mille fiate in sul capo mi tomi». Io avea già i capelli in mano avvolti, e tratti glien'avea più d'una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: «Che hai tu, bocca? Non ti basta sonar con le mascelle? Se tu non latri, qual diavol ti tocca?» «Omai», diss'io, «non vo che più favelle, malvagio traditor, ch'a la tua onta io porterò di te vere novelle». «Va via», rispuose, «e ciò che tu vuoi conta, ma non tacer, se tu di qua entro eschi, di quel ch'ebbe or così la lingua pronta. El piange qui l'argento dei Franceschi. Io vidi, potrai dir, quel da due era, là dove i peccatori stanno freschi. Se fossi domandato altri chi v'era, tu hai dallato quel di Beccheria, di cui segò Fiorenza la gorgiera. Gianni de Soldanier credo che sia più là con Ganellone e Tebaldello, ch'aprì Faenza quando si dormia». Noi eravam partiti già da ello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, lave il cervel s'aggiugne con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, diss'io, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi, se quella con ch'io parlo non si secca». Fine del 32° canto dell'Inferno.